America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York. Mario Platero continua in furia la polemica sulle intercettazioni. Ieri la Casa Bianca ha cercato di, come dire, moderare i toni della polemica transatlantica dicendo sostanzialmente tre cose importanti. La prima l'ha detta indirettamente, sono state delle rivelazioni che ha avuto il Wall Street Journal, e cioè che Barack Obama ha saputo di questa intercettazione solo recentissimamente, dopo aver usato un rapporto ordinato dalla Casa Bianca alla NSA che ha rivelato come in effetti ci fossero state delle intercettazioni ai 35 leader stranieri. Dunque il messaggio qual è? Beh, e voi l'avete saputo da altri giornali, però in realtà la ricerca, le rivelazioni vengono da una nostra inchiesta interna. Secondo punto, il processo di riforma che doveva chiudersi a marzo, ha detto ieri Jay Carney, si chiuderà già a dicembre. Terzo punto, una delegazione europea sarà a giorni in America per discutere di vicende privacy e soprattutto su come cooperare a questa idea di riforma che tra l'altro includerà, di questo forse ne parleremo nei prossimi giorni, anche il rapporto che il governo americano ha con consulenti privati. Snowden, ve lo ricordo, era stato assunto dalla Booz Allen, non dalla NSA. Ma oggi io resterei sulla privacy, perché se questa intrusione americana ci ha scandalizzato, possono esserci altre intrusioni nella privacy che forse non ci scandalizzano, e bisogna sempre trovare, come dice l'amministrazione americana, il giusto equilibrio. Da una parte le intrusioni di cui ha parlato Obama erano esclusivamente, ci ha tenuto a specificarlo la Casa Bianca, legate alla questione del terrorismo, non c'erano intrusioni per raccogliere informazioni economiche. Poi ci si può fidare o non ci può fidare, questo è un altro discorso. Ma c'è un altro grande tema, che è fino a che punto possiamo andare a esplorare computers, per esempio, per proteggere dei bambini dal rischio dello sfruttamento della pornografia infantile. Ecco, il tema è molto forte, perché se si pongono dei limiti da una parte, si rischia di porli dall'altra. Io con me ai microfoni di America 24, Ernesto Caffo, fondatore del Telefono Azzurro e grande difensore internazionale, mondiale, dovrei dire, proprio dei diritti dei bambini. Professor Caffo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, lei è qui intanto perché sta cercando di organizzare una conferenza internazionale interreligiosa per tutelare i diritti dei bambini, o sbaglio? Sì, dopo aver firmato la Carta di Roma nel 2011, nel novembre 2011, ICMEC, insieme a Telefono Azzurro, insieme ad altre organizzazioni, ha deciso di procedere realizzare uno dei punti centrali di questa carta, che era quella di far sì che i leader religiosi potessero impegnarsi per sostenere la causa dei diritti dell'infanzia. Questo naturalmente porterà a delle conclusioni su come si possono proteggere i diritti di questi bambini sfruttati, spesso in modo, devo dire, orrendo. Abbiamo visto delle storie orrende, milioni di bambini sfruttati, ma uno dei metodi è proprio attraverso, diciamo, l'intrusione nella privacy di computer per controllare chi sta seguendo a un certo punto dei siti pornografici. Sì, diciamo che la gran parte dello sfruttamento oggi dei bambini avviene sempre di più attraverso la rete. Questo ha portato ad attivare tutte le polizie del mondo, gli Interpol in particolare, nel lavorare sempre più nella rete per individuare gli autori di questi reati. In una recente conferenza proprio a Washington abbiamo avuto modo di vedere come la polizia può identificare gli autori di questi comportamenti drammaticamente criminali nei confronti di bambini, individuando i loro IP e individuando anche immediatamente dove queste persone stanno operando. Questo attraverso una serie di tecnologie che sono state adottate e che indubbiamente entrano nella privacy di molte persone, però permettono anche di bloccare un traffico di minori che in altri modi non. Ecco, mi sembra che addirittura abbiano fatto un collegamento con Zurigo, proprio per dare una dimostrazione a uno svizzero che faceva parte del vostro gruppo. Ha detto: ecco, in questo momento a Zurigo queste sono tutte le persone che stanno seguendo dei siti pornografici. Fermo tutte queste diverse. E quindi erano siti pornografici generici, poi all'interno di quelli si vede quelli che fanno. Che sono legati alla pornografia. Criminali, come quelli della pornografia. Ecco, e c'è un deep side of the internet, no? come è chiamato, deep internet, cioè delle zone oscure, segrete di internet dove avvengono delle attività illegali. Ma c'è una parte di internet che non è facilmente raggiungibile dalle comuni indagini che vengono fatte dalle polizie internazionali. Questo settore è diventato per tutte le polizie un problema serio che richiederà molti investimenti anche tecnologici, perché purtroppo sfuggono i contatti tra persone che scambiano materiale pornografico, ma talvolta anche scambiano non solo immagini ma anche contatti e anche ovviamente tutta una serie di altri percorsi. Operazioni di compravendita. Di compravendita di bambini attraverso queste nuove monete elettroniche, sono i bitcoin. Quindi questa moneta elettronica che non passa dalle banche, quindi non può essere facilmente tracciata, che rappresenta un elemento di enorme interesse. Ecco, il bitcoin, quindi si paga non in valuta ma in bit, in unità. In unità che sono delle unità elettroniche, digitali, sì. Che però poi hanno una possibilità di accumulo che può essere trasferita queste monete in monete in denaro reale. Ma i bitcoin sono utili o sono pericolosi? Ma i bitcoin possono essere un'ottima opportunità di scambio per molti paesi dove non ci sono sistemi bancari adeguati, però sicuramente hanno anche un grande rischio se non c'è un controllo. Per questo motivo la World Bank sta lavorando anche con grandi provider per cercare di trovare un sistema di governo e di controllo di questo problema. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo a un anniversario importante, perché esattamente un anno fa New York si preparava all'arrivo dell'uragano Sandy, e dunque vogliamo ricordare oggi questa giornata che a me sembra come fosse ieri l'oscurità che ci ha aggredito improvvisamente. Vi propongo dei Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Avete mai visto la pioggia? Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, New York è tutto. Simone, ti ripasso la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.